Natalinux, sì. Ia, ciao Gianfra, buonasera. Ciao, buonasera. Cosa combini di bello? Ehi, sono al computer, stavo guardando qualcosa. Che cosa? Sempre giocattoli? No. Me ne è passata la voglia. Se non si ascolta niente, non me ne faccio nulla. No, è così. Purtroppo è così. Cosa ci vogliamo fare? Se non è utile una cosa, è a spendere soldi non fa. No, se te l'ho detto, Natale, infatti, non è... Purtroppo è così. Non c'è nulla da fare. Non c'è nulla. Claudio, non ci hai sentito? No, negativo, io ho appena acceso. Ok. L'antenna, si mette la frequenza giusta e c'è tutto lo stesso, non è che cambiano grandi cose. Il ricevitore c'ho, però di là non ci va, hai capito? È analogico. Sì, ma tanto di là non ci andrebbe lo stesso, ce l'ho già detto che sono tutte particolari, capito? Quella roba si ascolta solo con altri apparecchi, che sono professionali. Guarda, ieri abbiamo fatto dei test con l'apparecchio che c'ha coso di Claudio, per vedere se era gestito da un altro apparato che professionale che è qua. Non lo vuole accettare, un attimino che mi stanno chiamando su un'altra frequenza. Natalino. Oh, dimmi. Tanti saluti da Claudio. Cappa. Che sta prendendo il fresco fuori e non ha voglia di andare al caldo della radio. Ok. Niente. Ma oggi c'è la partita dell'Italia, o no? Tu? Sì, alle 9. Cosa ti volevo dire? Stavi dicendo che un apparato di Claudio non lo vuole digerire, una cosa del genere. No, aspetta, perché non ho capito, perché devo, sto abbassando alcune cose che c'erano, perché c'erano qualcosa. Dunque, ripetimi quello che mi ha detto. Che sono apparati un po' particolari, che uno che ha quell'amico nostro non lo digeriva, una cosa del genere. Sì, c'erano apparati particolari che nessuno digeriva, questo ti stavo dicendo. È una cosa del genere, che uno di quegli apparati non lo digeriva. Eh sì, dunque, abbiamo fatto delle prove, stavo dicendo, per cui quelli, diciamo, professionali, ripeto, io per professionale non intendo quelli che dicono professionali genericamente, intendo quelli professionali per uso di lavoro, per uso quindi di quella classe di apparati da cui dipende anche la vita delle persone, quindi devono essere affidabili, precisissimi in frequenza, eccetera. Quindi quando vai a comprarli non richiedere neanche il prezzo, sono quelli lì, non sono quelli anche gli AESU, ICOM, eccetera, a uso amatoriale, quelli sono sacrificabili, costano la metà. Però non le puoi chiedere più di tanto. E infatti ti dicevo che abbiamo fatto dei test e abbiamo visto che quella classe di apparati economici non le può stare dietro perché non sono, hanno una frequenza trasmutata al massimo, non hanno le prestazioni di altissima precisione sullo cambio del slot, capito? Però anche quello che sono apparati che invertono in millisecondi gli slot. E se l'altro non fa lo stesso, non c'è ne storia, capisci? Sono sistemi a due slot, commettono errori. Quelli là invece sono economici, lo sa lui, sì, ti fanno giocherellare, comunicare in maniera semplice, in DM, in diretto modo, e poi quando le cose si fanno complicate, però non vanno, capito? Quindi se, anche uno li può prendere per ascoltare qualcosa di particolare, se non è super professionale e soprattutto non ha gli stessi codici, la stessa programmazione di quelli là, non ci fai niente, questa è la sostanza. Io lo so, ci sono anche due standard, uno è quello della Motorola e l'altro della Itera, che hanno un altro standard, già mi stavo leggendo. No, non è esattamente così. Allora, lo standard Motorola e lo standard Itera sono assolutamente compatibili, perché sono compatibili. L'unica cosa che può dare qualche problema al massimo è quando li usano in modalità pseudotronco, che c'è una Itera e una Motorola, ma non ci sono quei problemi, perché in entrambi poi puoi mettere una scheda e renderli anche compatibili per l'interesse degli utenti, ecco, quindi non è detto che possono lavorare tranquillamente entrambi. Altro conto è se ci metti un Baofeng, un Vox, un coso, ecco, quelli sicuramente non andrebbero, semplicemente. Tutto lì. Soprattutto se sono modulazioni in pseudotrunk o di altro tipo, o tutti altri motivi. Questi sono i set che abbiamo lavorato, ecco. Quindi con certezza ti dico che i giocattoli sono giocattoli, gli altri sono apparati per lavoro. È come volevo usare un escavatore di quelli giganti per fare un certo lavoro, oppure utilizzare una vanga sperando ottenere lo stesso risultato, ma non è così. Per avere uno di quelli professionali bisogna spendere parecchio. Sì, parecchio, e soprattutto usarli per il motivo per cui li ha presi, ecco. Io non ne ho problemi, perché ne ho, sono i portatili, quelli, stiamo parlando di professionali, ne ho credo 5-6, di veicolari ne ho 6 lo stesso, 3 in V e 3 in U, quindi insomma sono particolari, di cose, di quelli Yaesu, Icom, eccetera, praticamente c'ho solo uno Yaesu, credo, uno Yaesu 100 che va del 100%, solo perché c'è anche lui il digitale, ma il digitale amatoriale, capito? Funziona, sì, tutto quello che vuoi, ma non è da paragonare con DMR, che c'è lo stesso amatoriale, però è un'altra cosa, capito? Ti dà più possibilità, più impostazioni, più regolazioni, e soprattutto ti dà due canali in più nello stesso canale. Cioè sono delle differenze tra sistemi che vanno considerate. Poi il DMR con la razza d'apparati, siccome sono gestiti anche in rete, c'è la possibilità di renderli compatibili con tanti altri sistemi tramite il tipo di server, ecco, quindi possono comunicare con Tetra, con altri apparati della stessa razza, anche se risultano diversi, tipo il T25, che è il sistema americano, quello che utilizza la polizia americana, per intenderci, l'NX che tutto lo utilizzano in Spagna, e così via. Tutto lì è il problema, no. Invece ti volevo dire, siccome sono passato al microfono da tavolo, se va bene questa radio, se c'è qualche differenza rispetto alla solita. No, va bene, va bene. E quindi ho fatto un buon lavoro. Adesso da tavolo, anche se è molto buono il palmare, diciamo, però il palmare se devo parlare a mani libere poi mi dà fastidio, anche perché c'ho, avendo né tre di microfoni da tavolo, se no non sarebbe stato staccato. Ok, capito, non, tanto è vero che molta gente non le piace perché fuori dagli schemi tradizionali di quello che conoscono loro, però qua a Sassari attualmente c'è solo credo una stazione che trasmette DMR non amatoriale, ecco, aspetto non amatoriale, quindi professionale proprio, e tutte le altre sono fortemente chiuse, ci sono ma sono chiuse, quindi attacchi al tram, ce ne dovrebbero essere altre due che sono dividenti, e poi basta. I radioamatori, ripeto, quando ci sono su, si possono ascoltare tramite l'imbara. Tutto di questa è la situazione generale, per rendere l'idea di spendere i soldi, ripeto, se uno non c'è interessi particolari non vale la pena. Se uno deve comunicare con altri radioamatoriali in una maniera sicura, con sensibilità diverse anche dagli altri apparati, quindi in alta qualità, allora sicuramente per chi è appassionato come me ne vale la pena, ma per gli altri se contano, tieni presente che il discorso vale anche per gli scanner già lo sai quanto costano anche 600-700 euro, quelli che praticamente ascoltano il DMR, ma da quello che vedo, una volta che chiudo il DMR non passano neanche a duccio, sono solo per attività semplici, anche trunking, quello che vuoi, però semplici. Sì, infatti, quelli che li usano per lavoro è tutt'altra cosa, dai. Sì, perché normalmente un ente, soprattutto se fa lavori, che ne so, tipo, ecco, c'è dotazione alla regione sarda, che finalmente sono decisi a fare il bando, a dare luogo al bando che c'avevano, per la protezione civile, per la forestale, eccetera. Però a parte il volontariato tutti gli altri sono chiusi, quindi anche se uno volesse fare ascolto di non lo può fare. E infatti, non ascolti nulla, perché li cifrano domani che riesci a trovare la condizione. Sto ascoltando molto basso, c'ho veramente difficoltà natale. Basso di radio e non di segnale. Perché sto usando il microfono palmare. Guarda, io non ho più il Tanna che l'avrò addirittura regalato, proprio perché fa problemi di sottofondo. Io ho comprato questi qua che non costano eccessivamente cari, gli AV8, non so se lo sa, se riconosco quelli neri che sono di diverse marche, Avair, sono tutti diversi di marca, ma sono tutti identici. E ti devo dire che vanno molto molto bene, sono molto apprezzati. Si alimenta, li puoi alimentare tu o li alimenta l'apparecchio, hanno il compressore interno, non hanno regolazioni da fare se non sotto, quindi c'è una manopolina, ma non fa aspettare radio bombardate come stanno. Hanno un microfono a condensatore, quindi la radio è quella che si sente. E vanno bene, però insomma penso che non sia una radio fortissima, ma è una radio con un microfono da tavolo. Comunque lo uso qua, lo uso in HF, lo uso a volte anche in altre bande, vanno bene, sono facilmente adattabili, però col TAN spesso sento più la persona lontana che la persona vicina. E niente, capito Natale com'è la situazione. non è neanche una questione di ricevitoria, è una questione proprio di tipo di comunicazione. Infatti, mi sono accorto che avevo il machine diminuito. Guarda un po' se è aumentata adesso. Adesso non c'è bisogno di aumentare il volume, chiamare poi entra Claudio o qualche altro e ti balla la parete sulla scrivania. Perché quegli altri due ce li ho da tavolo, ma il turner stava facendo difetto e ne l'ho tolto. Poveraccio, ma non ha ragione, è roba vecchia nata lì, ripetiamo noi oramai, figurati i microfoni che stai sempre a premerli, a scarli. L'MBQ4 ma sta attaccando la prolunga perché c'ho il filo corto, se avessi avuto uno di quei riccioli gliel'avrei cambiato e gliel'avrei fatto più lungo. Ma vabbè, accontentiamoci di questo per il momento. C'avevo il macchine diminuito e stavo uscendo basso per quello, evidentemente. Sì, adesso è tutta un'altra storia. Poco fa eri proprio pio, come si può dire, tutto lì. E così, capito, è nata lì, e quindi la tecnologia ti ha fregato, però è inutile a inseguirla, ma il problema più grande non è tanto la tecnologia, il problema più grande è che veramente non, oramai è diventato difficile ascoltare nelle gambe VHS qua, perlomeno a Sassari, poi magari vai a Cagliari e il discorso cambia, proprio perché non c'è, siamo in un periodo di, come si dice, di stanca, di fortissima crisi, la gente sta pensando ad altro. Sì, infatti, anche quello c'è. Io sento sempre a coso, come si chiama, su due alfa mi sembra che parli. A Vittorio? Sì. Sì, io lo sento, ma lui parla sempre con la Spagna, perché giusto con quelli puoi parlare, capito? Parla con qualche ripetitore spagnolo, francese, perché anche sull'R2 alfa non è che ci siano grandi risultati. Gli altri che entravano sempre non so neanche che fine abbiano fatto, se ci siamo ancora. Qualcuno era anche anziano, di quelli che sentivo anche sull'R0, ma infatti non so neanche se in funzione, se c'è ancora l'R0. L'ultima volta che ero il mese scorso a Badi Urbara, l'ho provato, ma no, niente. Capito? Tutto lì. Io non sto entrando più nessuno, là. E quindi gente Nisba. Sì, ogni tanto sento qualche W0 in HF o in PSK, che sarebbe la semplicemente una telescrivente digitale, dai. In HF moltissimi si sono spostati in coso, in NFT8, perché praticamente la radio parla da sola, senza bisogno neanche di operatore. I tuoi dati, chi sei, dove sei, fa tutta da sola, ma a me non mi piace onestamente, perché non c'è niente, non, a parte che lavora con potenze bassissime, dovrebbe lavorare, perché ha le stesse peculiarità quasi del CW, no? Anche qua tu vai proprio sopra in 28, quelli che senti aperti sono tutti lì, lo metti, ti arriva Francia, ti arriva Inghilterra, ti arriva la Germania, ti arrivano gli Stati Uniti, tutto un elenco di nominativi sempre. Sono stazioni che stanno facendo il CQ praticamente, però poi sai, non per me, ma come la vedo io, è una cosa noiosa leggere nominativi senza vedere poi questo ha fatto il ciao, grazie per il collegamento, non è che sia molto entusiasmante. Ho ascoltato un aspettare che compaia la decriptazione del computer con tutti i dati. È troppo robotico, capito, troppo automatico, non ci gusta. E il PSK lo vedevo qui, io ce l'avevo, c'avevo l'interfaccia, ce l'avevo. Adesso non c'è più niente. Guarda a me. Sì, il PSK, quello, ma non me la metto neanche, ho tutti i programmi, un po' per tutti, quindi si ne hanno tantissimi. Ma anche, figurati che anche il PSK si è ridotto moltissimo, proprio perché tutti hanno l'FT8 di lì, però è uno dei pochi sistemi digitali che a me non piace veramente, perché è troppo non c'è il tuo intervento, capito? Se lo una volta programmato con quei messaggi standard, ciao, sono, ti trasmetto adesso da Roma, sono il nominativo in Italia, eccetera, eccetera, eccetera, il mio nome è così, boh, basta, trasmetti quelle cose in automatico una volta che stabilisci il collegamento. Alla fine, ciao, grazie, tanti saluti, qui QSL via QSL, quindi tramite posta elettronica. Guarda, è più simpatico magari andare a vedere quelli russi che trasmettono dalle foto, eccetera, che altro. Almeno quella è una cosa che inseriscono in diretta, vanno e poi se la cambiano. Lo so, però a me piace più la fonia. Questi sistemi digitali non è che mi vadano tanta gente. Ma sai cos'è? Che non c'è bisogno di conoscere nessuna lingua, perché ti imposti messaggi in inglese. Fatta, boh, ne fai quanto ne vuoi. Io infatti, l'ho fatto con questo apparecchio, la potenza attuale di per un PSK. In PSK con l'altra antenna, ovviamente le antenne un po' più adatte, sia in 40, sia in 80, eccetera, premi, trasmetti. C'è sempre lì il fan di turno che ti risponde, ti segue, ti chiama, rispondi. Solo se a me la parte dove c'è Ivan non mi interessa, capito, perché praticamente c'è proprio lui che me lo trovo dentro, perché qualcuno mi ha detto sì, anche a me capita, perché sia la Sardegna particolarmente favorevole a quella zona lì, però sono due palle. Io lo so, a me mi piacciono le chiacchierate tipo quelle che ci facciamo noi, però quelle balle lì, io le ascoltavo sempre, mi interessa la fonia, infatti ce le avevo tutte quelle cose, le staccavo l'HF via e ricevevo tutto. Sì, infatti, ma sono altri tempi natali, non puoi pretendere oramai di andare con motore diesel quando a breve anche il diesel lo eliminano, perché oramai quello che sta succedendo è inevitabile, ma non solo il diesel, come anche il benzina, c'ha gli anni contatti, perché anzitutto per i costi, perché andando e costando sempre tutto di più, e poi perché vogliono fare l'ultimo affare con l'elettrico, che però contenendo anche particolari tipi di metalli abbastanza costosi per le batterie, non lo so fino a che punto sarà efficace, però quello c'è, quello si usa. Chi c'è, ambulanza? Poco fa sono passate due macchine della polizia, chissà cosa cavolo è successo. Un incidente stradale. Poco fa, un'oretta fa. Adesso magari solo l'ambulanza per qualche altro, però c'era un incidente stradale. non mi ricordo dove, non so se fosse, però c'è un incidente stradale. Sì, tanto io avevo stamane nel giù ad Alghero, e non ti dico quello che c'è, traffico a Dugo, gente correndo, qua, lasciamo verde. E ieri lo stesso ci hanno messo sotto una di quelle moto delle poste. Sono passato perché ero lì a accompagnare delle persone a farsi il richiamo del vaccino, e tornandone lì a Pridanida ci hanno messo sotto uno delle poste. Troppo veloce, troppa gente distratta, troppa gente con in mano il telefonino, e che se ne ha se ne messa. Oggi devono tutti correre, ma oltre a quanta gente, vedo, facendo manovre veramente da paura, qualcuno che è contro mano, veramente c'è molto casino, ma soprattutto molta distrazione. Comunque bisogna sempre stare allerta. È un attimo, un attimo che se ne vengono addosso non lo puoi neanche evitare. Questo è il volentieri. Infatti, caro lì, ecco dopo che ti dico. Ma io ho due occhi sempre così grandi quando sto guidando, perché se non ti ammazzi tu ti ammazzano gli altri. Però mi sembra che c'era qualcuno sotto che voleva entrare. Gianfra, guarda un po' a vedere. Io c'ho sempre con la punta di squarcio, se no anche due, tre. C'è qualcuno che vuole entrare avanti. Ieri stavamo provando, c'era anche Antonio, c'era anche Claudio, c'era anche tu, credo, poi sei andato via. C'era Antonio sempre provando, scaldando con l'apparecchio, però non capisce che la potenza è fino a certo punto. Poi se non c'è antenna, se non c'è cavo, cioè le parti sono sempre linee quelle, non si può lamentare che ti sentono più basso, medio, eccetera, perché sembra così, manca il cavo. È un brutto personaggio, e se non è buono. Devi segnare secondo me cavo hai. Tu figurati che io ho detto dalle antenne esattamente 30 metri dall'altra lì, cioè 45 metri dall'antenna, forse qualcosa in più. Quando provavo il cavo buono, tra l'altro, in un HS, ci mettevo il volumetro vicino all'antenna. I dolori, senza giunzioni, minata lì, senza giunzioni. Dicevo, ma come? 3 watt. Eppure erano 3 watt. E cosa? Secondo quanti metri sono, è un macello. E l'unica soluzione è stata mettere il tubo direttamente, il self è grosso, di lì ma l'eletto già si vede la differenza, quello già ne porta di roba. E allora da giorno a notte, e infatti il cavo, quello buono, sempre cavi buoni ovviamente, eccetera, li uso solo per l'antenna, per le antenne che ho qua, sul tetto, tutto. Che ce ne sono 3, e quindi no, sono 4, c'è anche la direttiva, quelle di imparo, se no non fa niente, capite? E anche il 27, se uno pretende di mettere sul 20-30 metri del 58, poi quello che stanno facendo adesso mi te lo raccomando. Dovrei avere una direttiva per VHF 12 centinaio d'euro e poi i risultati magari non sono neanche quello che aspetti, le faccio secondo anche l'esperienza di altri che l'hanno fatta. E devo dire che i risultati si vedono, e di lì sì che si vede il guadagno. Stasera mi guardo la partita dopo cena. Tanto io guardo solo la nazionale, non sono tifoso di nessuno, solo della nazionale. E tu, non guardo altre partite. Infatti, sta ripassando la domanda da te, la sto ascoltando io. No, qua è passata, va lì. Sì, perché tu sei lì, parla da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da dove arriva, boom. Io le sento, quando passano le sento anche quando sono sulla 131, no? Perché il vento le porta a quei rumori lì di quel tipo. E le vedo pure la sera, tardi, sono lampeggiature. Una volta in via Grazia dell'Edda lì, stavo salendo a casa, beh, ti giuro che avevo la radio accesa e i vetri chiusi. Sai che mi sono visto la macchina dei carabinieri dietro, subito saltato a destra e li ho fatti passare. Non ho sentito la sirena. Sì, appunto lei. Dalla radio, perché quelle lì sono lì c'è una azione potente, quando è vicino sono parecchi di bighe che ti pompano dietro. Poi se c'hanno quelle, adesso non ce l'hanno più, ma prima c'erano quelle elettromeccaniche, no? Con le trombe, quelle erano micidiali, quelle erano fortissime. Ma ti giuro che non si sentiva quella lì, era debolizia, no? Male che io ho il vizio di guardare dagli specchietti, capito? Ho visto la macchina dei carabinieri con i lampeggianti accesi, con una terzata mi do a destra e sono passati gli attacchi, chissà quanto stavano camminando. Di lì si corre, sono fatte per il lavoro. Adesso si sente un pochino di meno perché sono elettroniche, dipende, quelle sulla capota magari si sentono un po' di più, ma quelle altre che quando ce l'hanno sul cofano, dentro il cofano eccetera, quelle sono molto attenuate. E una volta c'avevamo un'ambulanza che c'aveva le trombe, quelle ad aria, cavolo, una volta non mi ricordo cosa, stavo controllando nel cofano e un pirla mi ha attaccato la sirena, mi ha fatto un soldo. Sì, quelle erano le più potenti, quelle che ho con il bitonale col compressore, ma non le mettono più perché assorbono un sacco di corrente. Ehi, lo so, questa con le trombe ad aria è proprio una le potenti. Le faceva la Sonora, la marca era quella lì, la Sonora, poi adesso ce ne sono anche altre. Ho visto la nuova serie di antenne, cioè la nuova serie, le antenne dedicate adesso, perché essendoci il Tetra, ovviamente devono essere di banda, no? E c'è la nuova serie 70-7400. E sono su lunghe, poi non aspetta che hanno guadagno micidiale. Quindi hanno cambiato antenna. Sì, in realtà tutte le antenne le hanno dovute cambiare, perché prima le antenne, ad esempio per loro erano 70, no? In gamma 70, così come anche quelle dei UF. Però la Caletti poi ha fatto la nuova serie, se ti guardi la nuova produzione, c'ha le 70-400, sono di banda, sono praticamente identiche, difficilmente si distinguono dalle altre che ci avevano. Mentre invece per l'arma, che i 70 non ce li ha mai avuti, ci sono quelle cose e cose, entrambi sono comprensibili anche di GPS, spesso ci hanno infatti due attacchi, sono della Caliti, la vecchia famosa Caliti che ha fatto sempre antenne per quegli enti da sempre, tutti da quando è nata. Le carabine sono corte e corte, non so se le hanno notate, proprio piccole, piccole, piccole. E quelle che avevano nere, quelle corte, adesso non so se le hanno cambiate, non lo so, non le ho più, non ho fatto più caso. Sì, sì, sono quelle corte, sono quelle corte oppure quelle classiche UHS che sono un po' sullo stilo praticamente. Tipo con le motociclari, per intenderci. I vigili urbani non ci ha fatto caso che tipo l'antenna. Sono lo stesso perché la frequenza è la stessa. E ma mi sa che sono quelle in ferro che hanno loro. Non sono quelle nere che hanno quelli là. Sì, sono le classiche. Le classiche UHF sono un po' più lunghe di quelle che c'erano prima, perché la banda era un po' più bassa, no? Essendo come 400-390, ovviamente, ma stiamo parlando di qualche centimetro più corta, quindi non si nota. Anche loro, dove se sono nella stessa frequenza di quelli là. Sì, con quel sistema la frequenza è sempre la stessa, o meglio i gruppi di frequenza sono sempre gli stessi, perché sono tipo cellulare, capito? Non è detto che devi stare sempre nel suo posto, quando premi il master ti riconosce che tu sei un rosso e non un nero e ti manda sul tuo gruppo rosso, utilizzando qualunque cosa può utilizzare. Ecco, è una questione di ministradamento, si chiama in gergo. E ti infila sul tuo slot, da. E quelli tra l'altro hanno 4 slot, il DMR ne ha 2, quello ne ha 4, per quello che imbatte un po' di meno, ed è più complicata come gestione. Esatto. Infatti DMR imbatte di più di quelli. E ha voglia, ma anche più dall'analogico, perché mantiene una banda passante molto più ristretta, quindi di 12 kHz. 12 kHz diviso 2 sono 2 canali, su cui puoi creare anche dei sottocanali volendo. Mentre invece il tetra sono 4 canali, quindi la classica occupazione di banda sono i 25 kHz del VHF navale, tipo quello navale per intenderci, un canale navale di quelli navali dal punto di vista dell'occupazione corrisponde a 4 canali digitali. Ma dimmi, i vigili urbani diviso questi in chili. Oh vabbè, quelli è meglio che si siano messi lì, è poco chiacchieravano. E adesso è tutto registrato, Natalia. Qualunque cosa dici, c'è anche il brogliato di ciò elettronico, capito? Quando fanno una multa la possono fare elettronicamente, insomma tante cose sono quasi automatiche, si può dire, proprio per non scappare. Il progresso è così, non può rimanere fermo alle vecchie cose. E diciamo che non sono rimasti al vecchio blocchetto. No, assolutamente no. Assolutamente no. Oramai. Oramai così, Natalia. Tutto cambia, tutto si evolve. Forse non hanno manco quelle fisse i vigili urbani, quelle veicolari, hanno i portatili solo penso. No, ci hanno, guarda ti dico anche cosa c'hanno, perché lo so, Allora, quelle veicolari e i portatili sono di Marca Sepura, che è una, credo che l'abbia assorbita la Litera, si chiama una marca che faceva radio professionali solo, e l'ha assorbita Litera da qualche anno. Poi possono avere anche dei Motorola. Mi è sembrato di vedere, però non ne sono certo, anche un sistema Tetra di tipo network, quindi collegato in rete, collegato anche via Tetra, del tipo Itera, quindi quelli a tablet, che ce l'aveva il tenente, credo, se non ricordo male, li ho visti quando c'era, doveva venire qualcosa di Mattarella, che poi non è venuto, ero lì nella piazza e quindi c'erano un po' tutti. Perché ho visto nella macchina che avevano portato l'attaccato al coso dell'aria, come si chiama? Forse c'era la cassa in macchina. Sì, ma il portatile ce l'hanno oramai a prescindere, perché fa parte della divisa, no? Quindi quando sei fuori dalla macchina utilizzi il portatile. Per ovvia questione, perché non è che era come prima, ma per ogni cosa dovevo andare alla macchina, adesso se devi comunicare qualcosa non stai lì a tornare indietro, eccetera, se, soprattutto se la macchina la devi lasciare lontano perché magari la strada è in pervia. Adesso c'è il potabile. Cosa? Il potabile? E il potabile c'hanno adesso. Mimmi, quel cocomane di Luca Manicomio. E anche lui c'è il potabile. E allora, sei cocomane. Io c'ho la brizzella. Ah, tu c'hai anche la brizzella. Sì, la brizzella, pedivella, caldarella, la tapparella. No, la pedivella ce l'ha Claudio. Questo non lo devi dire, eh. E poi nessuno va in bicicletta, nonostante abbia la pedivella. E infatti, mio compare va in bicicletta, a quello lì gli piace un bel andare in bicicletta. Quello lì mi ha fatto la testimone al matrimonio, praticamente. Sì. Aspetta Natalia, sto controllando una cosa che ho perduto una testa. Normalmente ti do l'antenna. Cappa. E allora, cocuomane, non parli adesso, fatele alle lumachine. Vabbè, chi è avanti? Chi è che sta entrando con l'eco? Avanti. Lumachine non ne ho fatto, io ho un po' poche Natalia. Noi con bruciato vuole fare da stilo, ma non ammara. L'ho urtato da una parte incandescente. Cappa. Io le ho già mangiate comunque le lumachine. E questa è mia moglie. E beh, fra, cosa vai? Ora, ora, le detestivo ci vintetti. Ora, ora. Catalino! Arento, Lucariello, se ascolti qua, capo. Che? La 5 a 960. Cata. Bene, ci sto arrivando. 960. E dove sei? La marina. 960. Così forte. Sei un cuocomane questo Franco, bisogna che faccia da bravo, eh. Aspetta un attimo, lui, sto provando una cosa, eh. Ah, tu sei, praticamente sì, tra il 3 e lo 0 e mezzo. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5. È uguale, si muove, non va più, non va oltre. Non si muovi, no? Non va oltre, vai, sia quasi al massimo. Natalia, da te come sono? Io non te lo puoi immaginare come ti sei. Bisogna che ti rudichi, hai. A fondo scala, su. Ehi, all'ombra. Bubu, andiamo noi, andiamo. Vabbè, signori, io vi lascio che devo fare cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, già rimango in ascolto. Ciao, Natalia. Gerà, riascolta le prossimine. Vai, Lucariello. Dì che c'è la partita stasera, mi. È vero. È vero. Andiamo, vai, andiamo. Lucariello. Io a Fra, che mi sei spostato un attimo, mi sono bruciato col ferro d'acido, che mi fa un bel male. Ma cosa mi hanno regalato? Un 68? Però devo vedere la saccia, perché secondo me c'è stata la partita. Aggiustalo. Infatti l'aggiusto sì. Perché non si sente né volume né nulla, capito? Esce di portata ma non esce di radio. Cioè esce di radio ma non si sente niente, il problema è il microfono. Ma non penso, perché ho provato l'altro microfono e lo fa lo stesso. Che be gebe? E sono al finale audio di ricezione. Sicuramente. E vabbè, va un aggiù dentro. Mi stavo facendo alcune cosette qua. Ho finito adesso. K. Quindi il segnale è buono? Sì, ho voglia. K, va bene. Scusa così io, prego, non c'è un problema. Che vegeve, chi da rost? Non c'è nessuno qua. Che vegeve. Ok, dai, riprendo dopo lui. E io. Sto finendo alcune cosette qua, dai. Se no, mi cavo bene. Hai capito, K? Saturo. È troppo potente, capito? È una saturazione. Ora, guarda adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, sì. Adesso va bene. Troppo potente è stato dato. E va bene così, dai. Perché c'è l'aumento, un casino. Così dico, fratello, non ci sono problemi. Attento Giulio, guarda questa la modulazione, 1, 2, 3, 4, 5. Già va bene. Mezzo bidone con la radio, ma chissà cosa c'ha, va a vedere cosa c'ha, che problemi c'ha. Mi sa che è partito anche il finale con la radio. E si conferma. Vabbè dai, riprendete. Andiamo. Andiamo! Che ha fatto?